Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ho detto, se c'è da prendere dei giocatori, prendetemi quelli bravi, poi in qualche modo li sistemo. Però non telefono, non chiamo, se c'è qualcosa di novità mi chiamano loro. Ti piace vincere facile? Diciamo che la torta l'abbiamo già cucinata bene ed è gustosa, manca la ciliegina. Se si riesce a trovare la ciliegina, bene, se no ci accontenteremo della torta. Però ribadisco come questo gruppo comunque è un gruppo che può rispondere bene a quelli che sono i nostri obiettivi. Occhio Alessandro, poi Cuadrado, è il gol del 2-1 al 94esimo, come un anno fa, da Pirlo a Cuadrado. Si torna da Meunier, lo sguardo dentro, l'inserimento di Witzel! Ti piace vincere facile? Oh, carissimo Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, come va? Bene, bene, bene, a parte che qui negli ultimi 5 minuti ci si è ribaltata completamente la scaletta, potenziale, perché il Condor ha ricominciato a volare, ha spiegato le sue ali. Adesso vi raccontiamo tutto, però c'è il Milan scatenato, Jovetic, Fabregas. Poi vediamo cosa resta questa sera alle 23, mancano 8 ore e 58 minuti alla fine del calciomercato, per fortuna. Mancano 8 ore e 58 minuti alla fine del calciomercato. Saluto anche Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a voi, ciao. Poi davvero fra qualche minuto vi diciamo cosa sta succedendo intorno al Milan, perché sta succedendo di tutto. 800 24 00 24 vi aspetto qui fino alle 15, quando mancheranno 8 ore esatte alla fine del calciomercato. Dateci già i vostri voti, diteci dopo la Juve che ha già vinto lo scudetto chi c'è. Diteci chi bocciate, chi sognate per le ultime 8 ore. Noi vi aspettiamo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Ve la ricordate, vero, no? La formuletta, vi piace vincere facile, te la ricordi Massimo? Sì, sì, me la ricordo, ma non so quanto sia. Beh dai, possiamo, se davvero come, non è ancora ufficiale, ma se davvero come sembra arrivano Witzel e Cuadrado, io insomma non so che no, si può stato... dire. È ora anche al di là di Witzel e Cuadrado, Cuadrado è stato un mercato eccezionale, quello juventino non siamo abituati. Poi la Juve c'ha sempre questo fatto che prende i giocatori più incredibili all'inizio o entro luglio, e allora poi ci si scorda e a fine agosto si va tutti nel panico, anche non arrivasse Witzel, allora secondo me non sarebbe una tragedia. Però ci ho detto, tu hai una squadra molto nuova, con età abbastanza alta, tantissime fuori classe, qualità incredibile, però insomma è una squadra da organizzare ancora, perché senza Pogba, senza Morata, quindi insomma vediamo un po' come andrà. Sì, però insomma adesso che i tifosi della Juve arrivino alle ore 14.03 dell'ultimo giorno di mercato un po' perplessi, è paradossale, anche se in realtà esiste, Pier, una doppia scuola di pensiero tra i tifosi della Juventus. Ne ho anche trovati alcuni che si lamentano del mercato. Vabbè, vale tutto. No, la Juve è rafforzata, credo senza alcun dubbio, è molto più esperta, è molto più europea, è molto più zeppa di campioni. Poi è chiaro che qualche incognita c'è un'incognita, diciamo, fisiologica di una squadra che vince da così tanto tempo, con alcuni giocatori che comunque vanno progressivamente avanti con l'età. Penso al pacchetto difensivo, questo stesso discorso che vale per Ventura e per la nazionale, per capire insomma se nel prossimo anno, nei prossimi due anni, nel caso di Ventura, ci sarà la stessa tenuta straordinaria che questa difesa ha avuto negli ultimi anni. Ce l'auguriamo ovviamente in chiave azzurra, e quindi va bene tutto insomma. Però io credo che sia un po' quello che diceva Massimo, cioè essenzialmente per il secondo anno consecutivo la Juve si è mossa presto, quest'anno in maniera clamorosa, molto molto forte, e adesso esattamente come l'anno fa presso a Draxler, adesso c'è questo discorso del famoso centrocampista di Witzel, sì, di Cuadrado, che non, a parte che credo ci sia grande ottimismo, ma c'è chi, e giro la provocazione a Massimo, ma non è tanto una provocazione, non sono tanti, però ci sono quelli che ritengono ad esempio Witzel una sorta di ripiego, perché il prescelto era un altro, doveva essere Matuidi, Witzel al massimo sarà una riserva. Non so io, c'è anche chi lo contesta il mercato in questa fase finale. Devo dire una cosa, mi accorgo ormai poi con i social, con le chat tra 50 amici della stessa squadra che credo abbiano poi un po' tutti, che c'è sempre chi si lamenta. Cioè ormai, cioè, accorgiamente prima parlavamo con i nostri 7 amici della squadra, e allora era tutto un po' più ragionevole. Qua ormai si lamentano tutti, in ogni momento. Dani Alves è vecchio, Higuain non andava speso così tanto, quello così, quello cos'ha, se spendi poco spendi troppo poco, se spendi tanto però allora dovevi fare i calcoli migliori. Quindi qualcuno si lagna sempre. Io non mi lamento affatto, sono messo ad un grandissimo mercato, qualità assoluta, ci si dimentica quasi di Pjanic, che è un giocatore, cioè Pogba pare non sia stato sostituito se non arriva Witzel. Comunque è arrivato Pjanic, che in Italia forse dopo Pogba, tra assist e gol, è il centrocampista più simile, non come caratteristiche ma come appunto dati e statistiche. Quindi ripeto, secondo me è un calciomercato obiettivamente eccezionale. Poi la domanda successiva è: calciomercato eccezionale comporta necessariamente la vittoria? Io là, avendo vissuto i 20 anni di super calciomercato dell'Inter, super nomi e di tutte le altre squadre, ho dei dubbi. Però la Juve parte da una statura molto forte. Io ho l'impressione che la domanda sia un'altra, cioè calciomercato eccezionale, quindi abbiamo la garanzia di vincere in Europa, perché, no. perché penso che lo scudetto, per carità, il sesto, la leggenda, tutto quello che volete, però oggi per i tifosi della Juve sia un obiettivo quasi limitato. La garanzia di vincere in Europa la garanzia di vincere in Europa non ce l'ha avuta nemmeno il Barcellona dei record, non ce l'ha avuta nemmeno il Milan degli anni leggendari, cioè nemmeno le squadre che hanno veramente segnato delle epoche e che erano magari nello specifico nettamente più forti di tutte le altre avevano la garanzia di vincere in Europa, perché l'Europa è aleatoria, non si basa su una competizione di 38 giornate dove alla fine il più forte vince. Ci possono essere degli anni in cui c'è molta poca distanza tra il primo e il secondo, e quindi poi, ma insomma, mediamente, se una squadra è più forte delle altre sulle 38 giornate viene fuori. La Champions invece si lega a un episodio, quindi tu puoi fare pure una Champions da dominatore, da dominatrice, poi arrivi in finale, ti dice male una partita, sbagli una serata, e quindi questo la Juve non ce l'ha, come non ce l'ha il Barcellona, come non ce l'ha il Real Madrid, la certezza di vincere in Europa. Però che questa sia una squadra destinata e programmata a far bene in Europa, far bene significa significa andare avanti, significa affacciarsi, diciamo, alle semifinali, essere protagonista, farlo in un certo modo. Poi ovvio che dipenderà tutto da una serie di notti che sono notti speciali e che rendono il calcio meraviglioso, in cui una componente anche legata alla casualità, alla fortuna o alla prestazione, i famosi dettagli, diventa decisiva, no? Come nei mondiali di ciclismo, sì. Come nella finale, come alle Olimpiadi, e poi arriva il giorno in cui è il bello dello sport. Sì, ma senza andare ai mondiali di ciclismo, io credo, ma questa è la nostra impressione, Massimo, ma non è quella di tutti gli juventini, evidentemente, che una rosa con Witzel, con Cuadrado e con tutti gli altri sia una rosa sufficiente per pensare di veleggiare fino a Cardiff. Sì, no, ma la rosa è sicuramente sufficiente, anche quando si legge la squadra 2, tanti ci giocano ora dicendo... No, guarda, te la leggo, Neto, Benatia, Rugani, Evra, poi decidete voi se Benatia deve fare il titolare o no, poi Cuadrado, Marchisio, Lemina, Sturaro, Asamoah, Piazza e Mandzukic. Sì, esatto, c'è cioè una squadra che diciamo in Italia giocherebbe la Champions, sì, e anche in Champions, esatto, e terza, non so quanto, però comunque giocherebbe con le prime 2, 3 o 4, e in Champions forse passerebbe il girone, molto probabilmente. Quindi secondo me questo è vero, però ha detto bene Pier, io sulla Champions senza alcuna scaramanzia, ma la Champions è veramente una lotteria, perché io ho perso finali contro l'Hamburgo e contro il Borussia Dortmund, e con l'Hamburgo avevo 6 campioni del mondo più Platini e Boniek, ed era una squadra fenomenale, eppure ha perso con l'Hamburgo. Aggiungo che quest'anno, anche vincessimo il girone, ci sono dei gironi dove la seconda vale la prima, Atletico vale quasi il Bayern, il City vale quasi, diciamo, il Barcellona. Tu magari vinci il girone agli ottavi, ti trovi il City di Guardiola, garanzia non è affatto di passare. Certo, la squadra è fatta per poter arrivare fino al fondo. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, Massimo. Sì. Da tifoso della Juventus, tu Lichtsteiner alla Juve, lo dai o no? L'aggiornamento è che esistono anche altre offerte, ma Lichtsteiner avrebbe fatto sapere che lui ha l'accordo con l'Inter e quindi lui lì vuole andare. Ma guarda, il mio ragionamento, devo dire, sono molto poco romantico in questi casi. È chiaro che chi ti dice sempre mai alla Juve, però dici mai alla Juve questo e quest'altro, non farei regalare agli giocatori. Il mio calcolo è economico o di convenienza. Se a noi conviene dare Lichtsteiner, l'Inter, l'ho letto ieri, lo voleva gratis, semigratis. Un paio di milioni, 2-3 milioni. Un paio di milioni, ho capito, ci compri me a centrocampo probabilmente, ma non Lichtsteiner. Ma non può essere ingordo, se hai Cuadrado e Dani Alves, non hai neanche lo spazio per farlo giocare. Sì, ma allora mi fai un'offerta congrua, sono d'accordo, ma sicuramente non regalo all'Inter, allora veramente lo do all'estero. Ma all'Inter non in quanto rivalità, che non esiste, perché l'Inter è... una quarantina di punti sotto a fine degli ultimi campionati, non è questo. La vera rivalità è che gioca in Italia, il nostro campionato si è rinforzata, perché devo andare a regalarlo a loro, non tanto perché Juve, Inter, chissà che rivalità ci siano. In questo senso io non lo darei in Italia a una che si gioca comunque per i posti. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. La lucidità laica di Zampini è, sì, ma... è perfetta, no? Nel senso che poi alla fine, al di là dell'elemento rivalità che rende questo sport ovviamente qualcosa di diverso da tutto il resto, banalmente l'Inter in quella zona lì ha un problema, comunque ha un margine, un'area di miglioramento dove sicuramente può migliorare e deve migliorare. Lichtsteiner è un giocatore che secondo me ha ancora qualcosa da dare. L'importante è chiaro che è stato tagliato completamente fuori dalle strategie di mercato della Juve, quindi ha tutto il diritto di desiderare di giocare da qualche altra parte, ma la Juve ovviamente non vuole venderlo all'Inter. Ci sono dei progressi. Dietro pagamento di una cifra congrua. Credo abbia rifiutato il Borussia Dortmund. Sta rifiutando tutto, vuole l'Inter. Vedremo come va a finire, mancano 8 ore e 49 minuti. Tre messaggi arrivati, 349-238-6666, basta con la storia della Champions aleatoria, poi alla fine arrivano sempre in fondo le solite. Poi Giovanni Paolo da Padova che dice: Witzel è un ottimo acquisto, però andava preso prima perché era tanto che veniva corteggiato. Vi abbiamo detto c'è il Condor che posso si sta muovendo, sì, a quel messaggio lì, no? Sì. Certo, è ovvio che arrivano sempre più o meno avanti le stesse, questo non c'è dubbio che arrivino avanti le stesse, perché quelli sono i valori complessivi. Poi però chi la vince non è sempre la squadra migliore. L'anno scorso l'ha vinta il Real Madrid, che secondo me non era la squadra migliore d'Europa, però l'ha vinta. L'ha vinta perché l'ha vinta anche meritatamente, ma l'ha vinta ai calci di rigore in una finale con l'Atletico Madrid, che aveva avuto la bravura, ma anche la fortuna, di beccare il Barcellona nell'unica settimana di cortocircuito, ricorderete, no? Che di là un grande vantaggio in cui si è buttata via. E beccando 15 giorni di blackout totale, probabilmente se l'Atletico Madrid avesse beccato il Barcellona un mese prima sarebbe uscito, il Barça sarebbe andato avanti. Quindi questo è quello che voglio dirti, è che sicuramente poi non è che in finale ci va la Nortosis o nemmeno, che ne so, la terza del campionato francese o lo Sporting Lisbona, però è chiaro che in quell'otto di 4, 5, 6 squadre di quel livello lì, poi arrivati al momento decisivo, conta la prestazione, non c'è la garanzia di vincere. C'è chi dice ottimo mercato della Juve, ma forse serviva di più un incontrista. Però io avevo promesso all'inizio, sono le ore del Condor. Saluto Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica. Ciao, buongiorno a tutti. Perché il dilemma se dare o no a prezzo di favore un giocatore importante all'acerrimo nemico ce l'ha anche l'Inter, da quanto pare, negli ultimi minuti. Stiamo parlando di Stefan Jovetic. Esatto. Sì, in questo momento ci sono stati proprio dei contatti tra l'agente di Jovetic con l'Inter e Ausilio per portare la proposta del Milan. Sappiamo che ieri Jovetic non ha trovato con la Fiorentina l'accordo per l'ingaggio, e quindi il Milan, sfruttando, come dire, queste ultime ore di mercato e quindi quella situazione di difficoltà in cui si trovano i club con i rispettivi esuberi, e con questo mi riferisco anche al Chelsea con Fabregas, sta provando a effettuare dei colpi ad effetto. Stiamo sempre parlando però di formule assolutamente a basso impatto, per usare un eufemismo, sul bilancio Fabregas del Milan. Comunque... cioè, stiamo parlando qualcuno che deve essere prestato. Sì, sì, esatto, perché per quel che concerne Fabregas l'operazione sarebbe di prestito secco, anche perché Fabregas comunque ha un ingaggio da 8 milioni di euro netti, non proprio insomma cifre low cost. Non so se il Chelsea sarebbe disposto eventualmente a contribuire alla corresponsione dell'ingaggio. In ogni caso credo che anche se il Chelsea sarebbe disposto, diciamo, a privarsi di questo giocatore, che non è una prima scelta per Conte, lo stesso centrocampista spagnolo due giorni fa aveva con più tweet spiegato di non voler lasciare Londra, per cui vediamo se queste ultime ore saranno come dire, utili per portare a termine questa operazione. Di certo, ecco, meno costosa che quella relativa a Jovetic, perché avendo già l'Inter come dire, riscattato il giocatore, in questo caso il Milan dovrebbe solo versare appunto l'ingaggio, e sarebbe di certo un'operazione meno onerosa rispetto a quella. Sì, sì, e prendersi prestito, riscatto che in realtà poi sarà ufficiale da fine gennaio, perché questo dicono gli accordi, ma è un riscatto oramai blindato, gli accordi tra Inter e Manchester City. Grazie Monica. A voi, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a Monica Colombo. Ma secondo te l'Inter lo presta Jovetic al Milan, Pier? Ma è un po' lo stesso discorso che faceva Zampini su Lichtsteiner dalla Juve all'Inter. Cioè è comunque un favore che viene fatto a una diretta concorrente dello stesso campionato. Probabilmente, anche se l'Inter sembra un filo più avanti nella griglia, però grosso modo anche nella stessa fascia. Nel senso, sono quelle squadre che potrebbero ballare, diciamo, fra il terzo e il sesto posto a leggere oggi, poi stasera magari cambiano tutti gli equilibri, perché l'ultimo giorno possono succedere grandi cose, e quindi a naso ti direi di no. Poi nel mercato ci sono altre logiche, ci sono i rapporti, ci sono i risparmi economici, ci sono le contingenze. Io credo che l'Inter abbia deciso chiaramente che Jovetic non rientra più nei piani. È chiaro che resta 8 ore dalla fine del mercato, se non ci sono altre possibilità alla fine si può anche decidere per una soluzione non ottimale, che sia quella di prestarlo, al Milan. Chiediamolo anche agli amici a casa, tifosi dell'Inter. Per tornare al ragionamento laico di Zampini, poi Milan e Fiorentina sono abbastanza simili, nel senso che se parliamo chiaramente di rivalità, per un tifoso dell'Inter Milan e Fiorentina sono molto diverse. Se parliamo invece di pragmatica logica e di equilibri del campionato, sono due squadre grosso modo della stessa fascia. Ma è uno dei grandi temi, Pier, di questo fine agosto. Voglio dire, un anno fa Inter e Fiorentina litigavano per Salah, oggi l'Inter dovrebbe fare un grande piacere alla Fiorentina per restituirgli Jovetic, o forse è la Fiorentina che lo fa, il Milan che lo fa, perché Jovetic è un esubero oggi in casa Inter. Assolutamente. 800 24 00 24. Intanto Balotelli sempre più vicino al Nizza, ha fatto le visite mediche e si stanno limando gli ultimi dettagli. Secondo me sbaglio, deve andare a Palermo, però anche qui aspetto che cosa ne pensate da casa. Traffico, torniamo subito. Qui è altro che Ciupiti di Bobovir. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto c'è un'altra grande storia in questa mattinata di mercato, ed è quella di Maximovic, che dopo mesi da separato in casa con il Toro ha fatto trovare l'accordo tra Cairo e De Laurentiis per volare al Napoli, ma questa mattina è rimasto bloccato all'aeroporto di Francoforte per un allarme bomba, e quindi c'è anche stata, insomma, la possibilità che non riuscisse ad arrivare in tempo per visite mediche, firme sul contratto, situazione che pare essersi sbloccata proprio in questi minuti. Qualche altra notizia, c'è il Pescara che sta facendo un tentativo concreto per Antonio Cassano, ti risulta, Pier? No, però non lo so, io ho visto ieri sera, quindi non so chi sia. Ieri sera no, però l'ultimo giorno di mercato sappiamo che è abbastanza frenetico, quindi mai dire mai. A proposito di altri nomi che girano, Wilshere, che è stato accostato questa mattina al Milan, ieri era stato accostato alla Roma, molto probabile che invece resti in Premier League, potrebbe restare al Crystal Palace, che quindi non prenderebbe rincon del Genoa, che con i suoi 10 milioni potrebbe diventare un nome caldo per la Roma, o almeno questo si dice. Roma che non prenderà Maher, che va in Turchia, ma potrebbe prendere o Rincon o Belanda. Guardate che bello, abbiamo ancora 8 ore e 40 minuti per impazzire con questi incroci. 800 24 00 24. Omar dalla provincia di Cremona. Senta, buonasera. Io buon pomeriggio a te. Sono un tifoso juventino e praticamente, se io volevo, sono molto contento del mercato della Juve, perché comunque con gli obiettivi che sono prefissati devo dire un ottimo mercato. Io sinceramente, non quando ho sentito dell'acquisto di Higuain, non ci credevo ancora, dopo che si è concretizzato. Comunque tutti gli altri acquisti che si sono seguiti e che l'hanno preceduto, devo dire che hanno costruito una grandissima squadra. Ora sta al campo dimostrare che veramente siano stati acquisti giusti, ma penso che problemi non ce ne siano. E comunque volevo fare i complimenti al alla dirigenza, sperando che comunque tutti gli obiettivi che siamo prefissati, soprattutto in Europa, la famosa Champions, si arrivi il più lontano possibile, perché il campionato penso che non ci siano problemi, anche perché comunque le altre squadre diciamo che si sono indebolite, perché anche il Napoli aveva perso Higuain, insomma sì, ha fatto una squadra di prospettiva prendendo Rock, prendendo Zielinski, tutta questa generazione che è sicuramente un ottimo per un ottimo futuro, però sull'immediato secondo me diciamo che il Napoli fra 2 o 3 anni magari può cominciare a vincere qualche trofeo al di fuori dall'Italia. Sì. Ovviamente anche se sì, poi c'è chi ricorda la Juventus del Trap del 1983, ma ne ha parlato prima anche Massimo Zampini, perché poi tu puoi avere la squadra più forte del mondo, arrivare in finale con l'Amburgo e perdere. Può succedere anche questo. Sì, ma infatti questo è esattamente questo ragionamento. Però sappiamo che ormai il calcio europeo, al di là del piacere della vittoria, che non è un dettaglio ovviamente, della gloria, delle medaglie, della felicità dei tifosi, vive anche di tutta una serie di step intermedi che dal punto di vista del funzionamento di un'azienda che è una società di calcio sono importanti. Cioè ogni turno che tu fai in Champions League ti porta dei soldi, ti porta degli incassi, ti porta un indotto, ti porta ranking, ti porta prestigio, fa sì che i calciatori vogliano venire più precisamente da te. Ecco, quindi che la Juve quest'anno abbia fatto un investimento sul presente è abbastanza inusuale per la storia della Juve, lo ricordava anche Pugliini l'altro giorno. La Juve storicamente fa un mercato diverso, non fa un mercato andandosi a prendere il giocatore pagandolo 90 milioni di turno, no, non è proprio molto tipico, però evidentemente è un investimento che si fa per dare un'accelerazione ulteriore al ciclo già assolutamente vincente per provare a prendere una scorciatoia. Ma certo, ti dico l'ultimo scudetto ha vinto a Roma nel 2001, l'ha vinto attraverso la scorciatoia Battistuta, che poi un anno dopo era un giocatore ormai in fase calante ma è servito per quel tipo di discorso, ed è il primo esempio che mi viene in mente, no? di scorciatoie che ci sono. Poi in casa di Higuain chiaramente ha ancora sicuramente 3-4 anni di carriera ad altissimi livelli davanti a sé, quindi è una mossa che ci sta, certamente è una mossa di presente, non è una mossa di futuro, perché di fatto tu hai venduto Pogba, hai perso Pogba, hai preso un giocatore che invece in questo momento è secondo me più pronto e più decisivo per farti vincere. Saluto per Paolo Marino, ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti. Juventus a parte, cosa pensi del Milan che nelle ultime ore di mercato va su Jovetic e Fabregas? Poi vi diciamo anche che fonti inglesi ribadiscono che Fabregas vorrebbe restare a Londra, quindi comunque stiamo parlando comunque di un'operazione parecchio complicata, e c'è anche più di uno che ha qualche dubbio sul fatto che Fabregas sia ancora un giocatore che vale quello stipendio lì. Tu cosa pensi? Sì, sono le solite operazioni possibili del Milan degli ultimi 3 anni, che coincidono con una crisi tecnica e di risultati del Milan, ma anche con un calo di immagine e di credibilità del progetto, che si riflette poi, come abbiamo visto nel servizio giornalistico di oggi, con un calo di abbonamenti che è pauroso. C'è un precipizio nella curva degli abbonati e del gradimento della fidelizzazione. Quindi sono quelle operazioni lì, ora non so, closing, non closing, signing, non signing, signing, non signing, però mi sembra di rivedere il Milan delle operazioni degli ultimi 2 anni. Sì, forse Jovetic diciamo potrebbe avere una logica diversa dentro questo ragionamento. Sì, sì. Sì, rispetto a Fabregas. Sì, sicuramente è un'operazione più fresca Jovetic, anche se sai com'è. Prendere un giocatore bocciato dall'Inter per portarlo al Milan non è mai un'operazione di grandissimo e prestigioso gradimento. Ma sul mercato c'è ancora spazio per i dirigenti per fare ragionamenti di cuore? Cioè Lichtsteiner no, all'Inter non lo do, Jovetic al Milan non lo presto perché sono i miei nemici, oramai conta altro? No, ci può stare anche questo, è un po' la concorrenza interna o anche la rivalità territoriale, direi che sono anche cose che hanno sempre un po' appartenuto al calciomercato, perché le alleanze di calciomercato facevano parte anche del calcio antico, le alleanze, i dissidi, questo non mi meraviglia, anzi forse è una delle poche cose del calcio antico che si trasferisce nel calcio moderno, e sta anche discutere la gente, li divide nei giudizi. Io credo che ci possa stare. Oltretutto io credo che la Juve nella sua strategia di quest'anno abbia speso anche qualcosa in più, per esempio per Higuain, per la clausola rescissoria, però con operazioni tipo Higuain, tipo Pjanic, con clausole rescissorie che hanno avuto una doppia valenza, vale a dire rinforzare la Juve sicuramente e allo stesso tempo indebolire i nemici dell'anno scorso, quindi i potenziali concorrenti. Io credo, questo è il mio parere, che oggi sia antistorico. Cioè, se Lichtsteiner, Jovetic e altri mille sono giocatori in esubero che vadano ovunque, cioè alla fine risolvono un problema. No, e invece secondo me quello dice Pierpaolo è giustissimo. Cioè, allora, io ti dico, può essere antistorica dal punto di vista del dirigente di una società tutta la sfera legata alla rivalità, può fare un po' Palio di Siena, e posso capire che questa deve rimanere appannaggio dei tifosi. Cioè, è chiaro che il tifoso della Juve è più contento se Lichtsteiner non va all'Inter, se proprio deve andarsene, no, non va, che ne so, quello di Torino, magari non va dal Torino, se c'è una rivalità di quel tipo. E questo ci sta, ma ripeto, questo è un discorso che riguarda più che altro i tifosi. Dal punto di vista dei dirigenti, però, secondo me il tema sul fatto che tu giochi un campionato, questo campionato si gioca in Italia, ci sono delle avversarie più o meno della tua stessa fascia, questo è un tema che esiste, è quello che dice Pierpaolo. Cioè, la Juve ha speso questi soldi perché, oltre ad avere l'effetto positivo di andarsi a prendere Higuain e Pjanic, li ha tolti alle due principali antagoniste nell'eventuale corsa scudetto. Cioè, non è un dettaglio questo, non è un dettaglio, è un elemento secondo me importante e decisivo. Non è solo un fatto romantico, simbolico di rivalità, è un fatto, ripeto, oggettivo. Cioè, se la Juve può scegliere, Lichtsteiner, che comunque è un buon giocatore, lo manda in Bundesliga, dove al massimo si potrebbe trovare a affrontare in Champions League in un'improbabile sfida, perché è molto difficile che capiti, Lichtsteiner d'avversario, piuttosto che avercelo in una squadra in Italia. Sì, però se alla fine rischi di doverlo nemmeno iscrivere alle liste, perché vabbè, poi certo, ci sono i regolamenti, certo, io credo certo. Però insomma, vediamo, c'è tempo fino alle 23. Volevo fare un'ultima domanda al direttore Pierpaolo Marino. Detto di Maximovic, vi abbiamo detto, insomma, dovrebbe aver risolto il problemino all'aeroporto di Francoforte, altrimenti sarebbe stata davvero una storia incredibile. E sarebbe anche stato incredibile vederlo tornare in spogliatoio con Mihajlovic, con qualche problemino di convivenza. C'è Sportiello in rottura all'Atalanta con Gasperini, e c'è il Napoli che potrebbe bloccarlo, magari lasciarlo lì in prestito ma comunque prenderlo, e poi il Napoli che ha rispedito Grassi in prestito all'Atalanta, e dentro quell'operazione avrebbe strappato un'operazione per Kessié, che sta facendo benissimo in questo avvio di campionato. Ci sono però tanti tifosi scontenti. Ha scritto prima un amico, 349-238-6666, Balotelli lo doveva prendere il Napoli, che ha problemi nel reparto offensivo. Io non condivido sui problemi del reparto offensivo. Volevo sapere che voto dà Marino al mercato del Napoli. Allora, io do 7 al mercato del Napoli per quanto riguarda l'intelligente politica dei giovani, che sono di qualità i giocatori che ha preso. Anche se poi, come risvolto della medaglia, do un 4 per la clausola rescissoria di Higuain, perché si faceva in un minuto a dire valida per l'estero invece che per l'Italia, perché quando tu vai a allargare il gap tecnico, del potenziale tecnico con la Juve, perdi il tuo capocannoniere della storia del campionato italiano, e il miglior attacco della Serie A l'anno scorso era il Napoli, bastava migliorare la difesa, che invece la migliore numericamente di gol presi è stata la Juventus, si è fatto un autogol con questa clausola rescissoria, perché i 90 milioni non valgono il calo l'aumento del gap tecnico della Juventus che la clausola ha portato. Sì, cosa che credo adesso abbiano imparato un po' tutti i club in Italia, che stanno facendo le clausole con dentro la sottoclausola anti-Juventus. Abbiamo letto di Icardi, di Koulibaly. Grazie direttore. Vedete come la penso, non le metterei mai. Mai le clausole. Qui si pensa che copiamo il modello spagnolo, ma il modello spagnolo, il re di Spagna nell'81-82 giù di lì, sancì che a favore dei calciatori andava fatta una clausola obbligatoriamente rescissoria, per il fatto che c'erano contratti anche di 10 anni che stimolavano il vincolo, e quindi per la libertà dei giocatori impose questa clausola, ma gli spagnoli l'hanno avuta imposta, e nel 99% dei casi usano una clausola, per esempio 1 miliardo, dico per dire, sì, che non è applicabile, fuori mercato, quindi ma la subiscono, perché la clausola è uno strumento a favore dei giocatori, perché tanto se vanno male non l'azionano, se vanno bene ti fregano, questa è la verità, perché se sei un club che non fa trading e vuole vincere. Certo, grazie direttore. Arrivederci a voi. Grazie direttore. Certo. E poi, aspetta Pier, siamo in ritardissimo. 6 secondi. Sì. E poi sono aumentati i prezzi. Cioè, al di là del fatto che Higuaín e Pjanic ci hanno fatto bene, quello che è successo da quando le clausole sono state fissate a quando la Juve l'ha esercitate è che c'è stato un generale aumento dei prezzi dei giocatori, perché c'è stata molta più liquidità sul mercato per i diritti televisivi e quindi i prezzi oggi sono più alti. Due anni fa il colpo del mercato era stato di Turbo a 27 milioni. Era stato il giocatore più pagato in tutto il mercato. Oggi ci sono cose clamorose. Sì, assolutamente. Borsa, torniamo subito. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Roma-Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Sono Gianluca Nicoletti. Lunedì 5 settembre torna Melog. Dopo un'estate sicuramente non facile per tutti noi, sarò di nuovo in diretta per un confronto con i miei ascoltatori. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13. Melog. Ogni giorno i dubbi che verranno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Vi do qualche altra veloce notizia di mercato. È saltato il passaggio di Turbe al Lione, invece sempre rimanendo alla Roma, Van Kerr va verso il Nizza, che come detto sta aspettando di annunciare Balotelli, che ha sostenuto le visite mediche. Poi Marcos Alonso sta facendo in mattinata le visite con il Chelsea, dove andrà per 26 milioni di euro, visite mediche anche per Maxi Oliveira del Peñarol, che lo sostituirà nella Fiorentina, che ha fatto un'offerta importante per Obiang dal West Ham, prestito con obbligo di riscatto, cifra complessiva 6 milioni di euro. Salvo da Palermo, salvo. Eccomi. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno a te. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, no, volevo sapere notizie riguardo al mercato del Palermo, visto che è saltata l'operazione Balotelli. Sta andando su Ciofani del Frosinone. Ah, ottimo. Sta andando su Ciofani del Frosinone, però insomma mi sembra sinceramente, non so cosa ne pensa Luigi Pardo, che il Palermo sia una delle squadre che esce più in difficoltà da questo mercato. Sì, sicuramente, e devo dire la verità che neanche Balotelli in realtà poteva dissipare dubbi, però Balotelli era una soluzione interessante, perché mentre io non sono dell'idea che potesse servire al Napoli, cioè secondo me non è un giocatore, è un giocatore, lo conosciamo, che si porta con sé un carico di talenti ma anche di dubbi, e che potrebbe anche diventare un peso da un certo punto di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista mediatico, quindi secondo me non era adatto per una realtà comunque consolidata come quella del Napoli, per un progetto così, così importante, mentre a Palermo poteva essere in realtà la scintilla positiva. Quindi Palermo è, sì, sono d'accordo, è abbastanza indebolito, secondo me è abbastanza fragile, però detto questo poi c'è gennaio e poi vediamo, insomma in questo momento è una specie di under 21 europea, se mi passa l'espressione, no? Sì, ha tanti ragazzi giocatori giovani e tutti da verificare. Nell'impatto con la Serie A e ha perso tanti punti di riferimento. C'era un altro nome che il Palermo stava seguendo, quello di Falcinelli, che invece andrà al Crotone, che lo prenderà in prestito dal Sassuolo. Franco da Perugia, Franco. Buongiorno. Buongiorno a te. Senti, io complimenti per la trasmissione. Intanto volevo parlare di Jovetic al Milan. Sì. Volevo dire magari. Ti piacerebbe? Sì. Sì, sì, mi piacerebbe, e anzi io aggiungerei anche Ranocchia e venderei De Sciglio. Venderesti De Sciglio? Secondo me non sei tifoso del Milan, Franco. No, no, no. No. Sono dell'Inter. Ah, ecco. Ah, ecco. E prenderei anche gli Steiner alla Juve. Okay. Insomma, effettivamente dal tuo punto di vista, però sai, Io onestamente credo che io non paragono Fabregas ad esempio a Jovetic come ipotesi, Piero. No, no, no. Cioè, Jovetic secondo me è un giocatore che non ha fatto malissimo l'anno scorso ed è un giocatore che in una squadra come il Milan in questo momento servirebbe come non dimentichiamoci che Montella ha chiesto per tutta l'estate un esterno alto, forte, voleva Cuadrado. Sì, però secondo me in questo momento a Milan serve più Fabregas. Al netto di tutti gli aspetti, cioè, sappiamo tutti che Fabregas non è quello di 3-4 anni fa, che ha un ingaggio importantissimo, quindi adesso parlo in generale, parlo a livello di ruolo, però Fabregas di qualche stagione fa è un giocatore di grande personalità che potrebbe proprio cambiare secondo me il senso complessivo del centrocampo del Milan, quindi non mi sorprende che lo stia cercando la formazione rossonera. Poi è ovvio che costa molto l'ingaggio, sono tutte le complicazioni del caso. Jovetic lo conosciamo, è un giocatore estremamente umorale, ha avuto anche tanti problemi fisici, con dei colpi enormi di talento. All'inizio della stagione scorsa con lui a trascinare l'Inter, ma mi riferisco veramente alle prime 2-3 partite, e poi si è incupito, poi è tornato, poi si è rincupito. Francamente non mi sembra un giocatore da 38 partite in un grande club. No, a dispetto di un talento enorme. Sempre se il Milan oggi va considerato un grande club, no, però questo è per la situazione contingente. Ovviamente non manchiamo di rispetto a nessuno. Grazie comunque, Franco. Io non so da quanto tempo a Torino non si vedesse il centro bloccato per un acquisto del Toro. Saluto Mario Giordano, noto tifoso Granata. Ciao direttore. Stavo cantando Giua. Stavo cantando anch'io. Ma anche tu sei entusiasta, quindi. Entusiasta. Adesso io non è che conosca benissimo, sono andato a vedermi ovviamente, a rivedere, conoscevo di nome, ma soprattutto perché testimonia la grande ambizione insomma di questo Torino. Ecco, questo era, io credo, dei tempi di Martin Vázquez che non facevamo un acquisto così importante sul mercato internazionale, cioè con un giocatore così importante sul mercato internazionale, e questo ci entusiasma. Ma hai visto che ha fatto anche qualche papera ogni tanto? Sì, Capello e Guardiola non la pensano benissimo di Hart. No, non la pensano benissimo, ripeto, lo vedremo, lo valuteremo e lo vedremo all'opera. Non posso dire di essere un conoscitore profondo del giocatore, ne parlano comunque gran bene. È sicuramente un giocatore di una statura europea e di un'abitudine a giocare a livelli che insomma per noi, ripeto, era tanto tempo che non ci arrivava un giocatore di questo livello. Poi se è ancora, io spero di sì, insomma la nostra fiducia è piena. Diciamo che, ecco, come dicevo all'inizio, quello che testimonia è la testimonianza di una società ambiziosa, cioè che vuole stare a livello alto, che fa un salto di qualità rispetto, anche se anche qui è un contratto, è un prestito con lo stipendio che viene pagato, quindi con tutti i se e i ma, però insomma viene un giocatore di abituato a livelli a palcoscenici da Champions League. Ecco, questo non è irrilevante per noi. Piero, ho l'impressione che i tifosi del Toro stiano un po' rivalutando Cairo. Io ho sempre difeso Cairo, però sì, io però anche nei momenti tifosi più del Toro, no, lo so, tanti lo so, tifosi lo so. Del Toro, come no? Come no, è stato molto criticato ingiustamente secondo me, l'ho sempre difeso anche nei momenti più bui. Beh, allora il giudizio oggettivo credo che possa solo essere positivo, perché se un presidente, ed è così, poi alla fine lo puoi valutare soltanto facendo una sintesi dei risultati sportivi. Beh, il Torino con Cairo sta avendo delle gestioni di alto livello, è tornato in Europa, è tornato a fare delle imprese, è chiaro, ha un budget che non può essere competitivo con quello della Juve, con quello dell'Inter, con quello delle milanesi o di Roma e Napoli, quindi è ovvio che quelle prime posizioni sono precluse perché è cambiato il calcio e quindi non c'è più il 75-76 o il grande Torino, non c'è proprio la forza economica, ma nemmeno se Cairo lo volesse ci sarebbe la forza economica, è proprio un discorso di dimensione. Detto questo, c'è molto Cairo secondo me in questa mossa di Hart, perché è un colpo a effetto, è un colpo mediatico, è un colpo sentimentale. Sì, qualche papera l'ha fatta sicuramente, gli inglesi hanno un problema storico con i portieri, Capello ne sa qualcosa e Guardiola pure, però io sono entusiasta di questa cosa, cioè è un colpo, è un nome che dà prestigio e dà un motivo di interesse in più a tutto il campionato italiano, e arriva da una squadra che ha fatto delle cessioni con delle enormi plusvalenze in questa campagna acquisti e cessioni, ma che secondo me si è complessivamente rinforzata, perché il Torino secondo me poi oggi ha preso anche questo difensore, è tutto da vedere, ma secondo me è una squadra migliore rispetto a un anno fa. Sì, c'è poi questo cortocircuito per cui il Toro vive un'estate che è quella che abbiamo sentito, e i vicini di casa di Mario Giordano e di tutti i tifosi del Toro spendono 160 milioni di euro e fanno la squadra perfetta. Credo sia frustrante, no, per un tifoso. È frustrante, ma è anche, cioè, comunque siete abituati. Sfida storica. Siamo cresciuti con la Juventus della Fiat, è sempre stata, cioè, la storia del tifoso del Torino è questo, è quello che parte da una situazione svantaggiata, molto svantaggiata, e per questo la vittoria nei derby per noi è la soddisfazione massima, significa ribaltare una storia di chi parte più debole, è la lotta eterna di Davide contro Golia, questo lo sappiamo da sempre, ma non è una novità di oggi. Però quest'anno credo sia abbastanza stridente la cosa. Sì, ma tu, per chi è cresciuto e per chi è stato nella Torino in cui la Fiat era tutto, sa che è sempre stato un po' così, era, come si diceva giustamente prima, un po' diverso il calcio, e quindi c'era la possibilità anche per società, anche una volta i Davide potevano vincere il campionato di calcio, oggi i Davide non possono più vincere i campionati di calcio, ma che siamo Davide contro Golia, questo così è evidente. Detto questo, anch'io sono convinto che la campagna acquisti, nonostante alcune perdite dolorose, a cominciare da quella di Bruno Peres, oltre a quella di Immobile, che è comunque una campagna acquisti fortissima. Se adesso si conferma anche, come mi pare dalle ultime cose, che arriva anche Valdifiori, forse abbiamo anche quel centrocampista di riferimento in mezzo al campo che ci manca da tanto tempo. Quindi ci sono tutte le premesse, se si sistema un po' la difesa, che è piuttosto ballerina, anche perché cambiate totalmente. Io, come dire, sono permetteteci un po' di entusiasmo, visto che insomma alla cupezza siamo e alla sconfitta e alla sfortuna siamo abbastanza abituati e tarati, qualche momento di gioia ce lo possiamo concedere. Ma noi concediamo, Pier, assolutamente, concediamo e permettiamo. Grazie a Mario Giordano. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Grazie a Mario Giordano. Sì, Valdifiori è in treno, dovrebbe arrivare alle 15 a Torino per fare a sua volta visite mediche e poi firmare, mentre dai colleghi di Mediaset Premium al momento non c'è accordo via libera dell'Inter per ipotizzare un trasferimento di Jovetic al Milan, e rimane aperta anche ovviamente la pista fiorentina, Fiorentina che lo sta trattando da diversi giorni. 800 24 00 24. C'è anche una notizia che riguarda la nazionale, ma ci arriviamo tra qualche minuto. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Luca che dice: Jovetic è più finito di Fabregas, come al solito mercato fatto a casaccio da parte di Galliani. E poi un altro amico invece che scrive: il mercato della Juve è stellare, ma siete sicuri che non serva il quarto attaccante? O Piazza può anche fare la seconda punta? Beh, io aggiungo che se arriva a Cuadrado, in realtà Cuadrado può anche essere usato come esterno d'attacco, quindi potrebbe in qualche modo andare anche ad aiutare numericamente quel reparto. Roberto dalla provincia di Savona. Roberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Volevo una vostra considerazione sull'acquisto di Arce da parte del Torino. Innanzitutto è indubbio che sia un buon portiere, però io non lo scambierei con portieri del nostro campionato tipo Viviano, Perin. La sua carriera, insomma, ha alternato grandi prodigi a errori topici, nel tipico stile inglese, come diceva prima Pardo. Volevo chiedervi, secondo voi, quanto può dare, che valore può dare al Toro, quanto può aggiungere a questo Toro un portiere come Art? Pier? Secondo me molto, soprattutto in termini di entusiasmo in questo momento. Allora, io non credo che sia peggio di Perino, di Viviano. Credo che potrebbe non essere meglio. Cioè, credo che poi alla fine nella regolarità di un campionato, come diceva giustamente l'ascoltatore, poi ci potranno anche essere degli errori, quindi io non credo che sia tanto una svolta dal punto di vista tecnico. Credo, con tutto rispetto per Fadelli, che sia un miglioramento rispetto alla situazione precedente. E sì, il Torino poteva prendere Perino, poteva prendere Viviano, o poter rendere, non so, Sportiello consigli, però credo che prendendo Arta abbia preso invece un giocatore che può dare un'ulteriore iniezione di fiducia e di entusiasmo ai tifosi, che non è un tema secondario, è un tema importante soprattutto in una piazza come la Granata, che sappiamo vive molto anche giustamente di questo. Quindi già quell'immagine, già quel balcone con i tifosi sotto ha già un valore, e non è un valore di marketing, o se vogliamo è anche un valore di marketing, ma è un valore simbolico di una società che comunque mi sembra da qualche anno stia facendo delle cose molto importanti e molto positive in relazione a quello che è il suo budget. Io credo che il grande investimento l'abbia fatto l'anno scorso, e poi ci voleva pazienza anche per aspettare. Adesso poi raccoglieremo i frutti, li raccoglierà forse anche l'Italia, Pier, Belotti. Ma la molto italiana, attenzione. Esatto. Poi facciamo tante volte dei discorsi sugli italiani che non giocano, insomma, capito da questo punto di vista. Lui sta simpatico, però voglio dire, questo è oggettivo, nel senso che ha fatto degli investimenti che sono enormi sul mercato italiano, ha creduto in gente come Baselli, come Benassi, come gli attaccanti che ha avuto in questi anni. Adesso i tifosi del Torino si possono godere ovviamente Belotti, hanno avuto Immobile, hanno avuto Cerci nel massimo del suo splendore, arrivò anche al mondiale attraverso il Torino. Cioè il Torino da questo punto di vista negli ultimi anni, oltre ad aver dato il commissario tecnico alla nazionale, ha veramente valorizzato il Made in Italy nel calcio. Sì, ripeto, sì. Col budget possibile, e fra l'altro con delle plusvalenze pazzesche, quindi voglio dire, dal punto di vista manageriale voto 10, dal punto di vista del tifoso posso capire che in certi momenti, no, l'hashtag Cairo Braccino secondo me è stato sbagliato in assoluto. In certi momenti il tifoso vorrebbe sempre qualcosa di più, e lo capisco perfettamente, anche perché il Torino è una di quelle società come la Fiorentina, come la stessa Lazio, che hanno una storia gloriosissima, o come il Genoa, insomma, che hanno una storia gloriosissima, ma che poi nel calcio di oggi, pur essendo società importanti, non hanno ovviamente lo stesso budget per 2005. Mentre 30 anni fa era possibile che il Verona o la Sampdoria vincessero il campionato, oggi questa cosa, purtroppo aggiungerei, perché toglie un po' di incertezza e di divertimento, non succede più. Sì. Oggi i campionati in Germania li vince il Bayern, ogni tanto può succedere che si inserisca il Dortmund o un'alternativa di turno. In Inghilterra le grandi, a parte lo scorso anno, che è un caso assolutamente eccezionale, ormai sono quelle 4-5. È il destino, Pier, dei grandi campionati. Aspettiamo la riforma della Champions League, che secondo me darà più spazio e più soldi a più squadre. Vi avevo promesso che avremmo parlato di nazionale, perché intanto c'è una notizia. Saluto Alessandro Alciato, collega di Sky. Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio. La notizia mi pare è che Romagnoli vada con l'Under 21. Romagnoli va con l'Under 21, era già insomma nell'aria da ieri, adesso si conferma. Tardo pomeriggio la nazionale partirà da Coverciano verso Bari, e Romagnoli non sarà l'aereo. Aspetta che perché... Intanto vi dico anche una cosa che piace di solito a molti: a chi è andata la maglia numero 10 all'europeo ce l'aveva Thiago Motta, adesso è tornata sulle spalle di Marco Verratti. Beh, che mi sembra sia il legittimo proprietario, almeno è Pier, in questo ciclo azzurro. Sì, è il legittimo proprietario, ma Thiago Motta non era uno scandalo in quella situazione tecnica andare la 10 a Thiago Motta. Sì. Io sono convinto, vedi, si parla adesso, Mentana ha partorito l'espressione webete, sì, esagerata, perché questo è stato più che altro un giochino, no? Con gli amici, calciatori brutti, autogol, chiamarsi bomber. Però è stato un giochino questo di Thiago Motta lento. Thiago Motta certamente non è un fenomeno di velocità, ma è stato un buon giocatore, e secondo me c'è stato un eccesso di critica veramente preconcetta nei suoi confronti e un'etichetta veramente eccessiva. Poi ovvio che i fenomeni del mondo del calcio sono altri, ma rimane un buon giocatore di grande esperienza, e mi ricordo quando per esempio De Rossi lo difese in conferenza stampa subito, cioè, secondo me poi i calciatori lo sanno e hanno riconosciuto questo valore a Thiago Motta. Sì, Alessandro, cosa dobbiamo aspettarci sull'Italia domani contro la Francia? Cioè, si ragiona pensando che Israele è più importante, oppure Ventura ha bisogno di partire bene subito? Guarda, credo che vedremo una via di mezzo, nel senso che è vero che la partita con Israele varrà di più perché sarà una partita di qualificazione europea, ma anche è vero, altrettanto vero, che quella contro la Francia sarà la prima di Ventura, l'unica in cui potrà tentare di capire delle cose. Vi dico chi ha provato oggi, così insomma capiamo più o meno quello che succederà. Se non cambiano le cose, domani sera a Bari vedremo il 3-5-2, questo lo sappiamo, con Buffon, Barzagli, Astori al posto di Bonucci, insomma, che ancora 2 giorni di permesso, e Chiellini. Vedremo De Rossi al centro dell'Italia con Parolo e Bonaventura, e poi davanti Eder e Pellè, e sugli esterni a centrocampo Candreva e De Sciglio. Quindi una nazionale molto simile a quella di Antonio Conte. Non ci sarà Verratti, però Verratti aspettiamocelo invece fra i titolari della partita in Israele. Domani sera Ventura potrà far 6 cambi, quindi insomma delle cose potrà vederle, ma avrà solo la partita di domani sera contro la Francia per mettere a punto gli ultimi dettagli, per vedere poi la formazione vera proprio in Israele ad Haifa nella prima delle qualificazioni mondiali. Mi dici in un flash, tu che insomma vivi da dentro l'ambiente della nazionale, se Ventura è rimasto sorpreso della reazione alle parole su Berardi, se magari tra stasera e domani insomma sentiremo qualche precisazione? No, non credo che sentiremo alcuna precisazione. È rimasto sorpreso, anche l'ho visto piuttosto innervosito insomma da certe reazioni, perché poi insomma il concetto è: io avrei potuto dire delle cose diverse, ma ho voluto dire la verità. È stata posta l'attenzione molto sulla parte in cui diceva insomma che il 3-5-2 non è il sistema di gioco giusto per Berardi. È stata un po' invece silenziata, possiamo dire così, invece la parte successiva del discorso, quella in cui spiegava che ha talmente poco tempo per provare delle soluzioni che doveva assolutamente ripartire dalla nazionale di Conte o da qualcosa di molto simile. Nei titoli abbiamo visto per Berardi non c'è spazio nel 3-5-2, però vi assicuro che ha detto anche l'altra parte del discorso, quella della relativa alla mancanza di tempo per fare esperimenti, chiamiamola così. Dopodiché è vero che stiamo parlando del calciatore italiano in questo momento più in forma e probabilmente più forte. Sì. E quindi insomma doveva anche attendersi la reazione. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie Alessandro Alciato. Domani Italia-Francia, abbiamo un minuto. Fortunato da Belluno. Fortunato. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te. Anche Pierangelo. Pierangelo. Pierluigi. Pierangelo. Scusami, non si preoccupare. Scusa l'emozione. Dai Pier Fortunato. Di Jovetic, io sono super felice che arriva da noi, perché dall'Inter, ricordandoci anche di Pirlo e di Sedor, può solo arrivarci qualcosa di buono, anzi, anche le cose peggiori che possono arrivare possono solo migliorarci ulteriormente, quindi ben venga. Bene, quindi sei contento se succede? Altro che, Fabregas, secondo me costa troppo, e gli ultimi campionati ci hanno fatto capire che non è proprio esattamente il giocatore che uno vorrebbe in questo Milan, al di là del costo che ha. Io credo che il sospetto debba venire sul fatto che Fabregas viene offerto costantemente in questi giorni a tanti. È stato offerto anche all'Inter per imbastire una trattativa su Brozovic, però poi magari invece Fabregas è un giocatore che dice ancora la sua nel campionato italiano. Abbiamo finito, ci sentiamo domani dopo il giro delle 14. A domani Pier. Ciao. Io ringrazio anche Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, quando finalmente il calciomercato sarà silenziato per qualche giorno. Pisa il rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!